puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi qua qua. Abbi un po' di rispetto. Qua. E come Mario Monti. No, ma devi avere rispetto per una persona che abbiamo ospite questa sera. No. E dunque non cantare così a squarciagola queste cose. Non ti ridurre alla solita pagliacciata quotidiana. Bene, siamo qui con la Zanzara 800240024. Prima di presentarvi, cari ascoltatori della Zanzara, voi che siete in macchina, siete tanti che ci state ascoltando per questo inizio di settimana, prima di presentarvi il primo ospite, dicevo, raccogliamo un po' di voci del weekend che sono venute a noi. Yes weekend. No, come yes weekend? Yes weekend. Ah, le yes voci weekend. Del weekend. Brunetta, yes, si è fatto risentire. No, Brunetta. Sì, Brunetta, sabato ad un convegno della Fondazione Riformismo e Libertà, la fondazione del tuo amico Fabrizio Cicchitto. No, beh, adesso amico, ha detto qui che scatta la querela per diffamazione, eh? Faremo l'esame del sangue ai sottosegretari. Via. Dov'era prima? I sottosegretari, professor Monti, li analizzeremo uno per uno e faremo loro l'esame del sangue. E che è successo? L'esame del sangue addirittura. Ma hanno informato l'ex ministro Brunetta che il PDL sostiene questo governo? No. Questo... Che esami del sangue fai, Renato? Renato. No, ma dice l'esame del sangue perché bisogna evitare che siano politici, devono essere tutti tecnici. Ma gli ha votato la fiducia. La russa credo contro qualcuno, l'intervistatore. No, contro Ascanio Celestini. Ascanio Celestini. Beh, comunque, sentiamo. Non fa ridere nessuno, dice cose sciocche. Boh, che serve? Non so, lui chi è? Tony Coglione? Non ho capito. Oh, mamma mia. Perché si può dire mafioso? Si può dire mafioso a Berlusconi, non si può dire coglione al giornalista? Sì che si può dire, si può dire. Va bene, ma non era Berlusconi, era una finzione artistica. Ah, ho capito. Ma io non parlavo di lui, parlavo di un'altra finzione. Regala sempre. Beh, voglio farvi ascoltare. Beh, Maroni, questa è una cosa seria, che dice l'alleanza con il PDL è finita, però momentaneamente. Cioè, c'è la sospensione della democrazia, come sappiamo, almeno secondo me, non secondo Parenzo. Però c'è anche la sospensione dell'alleanza. Tutto sospeso. PDL Lega, è tutto sospeso. Maroni. È finita momentaneamente, perché se un partito è in opposizione e uno in maggioranza, almeno a Roma, vuol dire che l'alleanza è finita. Che cosa significa questo? Che non ci sarà futuro? Ma lo vedremo. Tutti dicono che il governo durerà fino al 2013. Avremo modo in questi 15 mesi di valutare se e come sarà possibile, sul piano politico nazionale, voglio dire, ricostruire un'alleanza che però nelle regioni c'è, sui territori c'è. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai. Beh, si è fatto vivo ancora anche Scilipoti, però quello, andiamo avanti con Scilipoti. È fossile, cioè, sempre Scilipoti. È come parlare dei dinosauri nel 2000. Una toccatina dell'europarlamentare britannico Farage, credo di pronunciarlo forte, bene, ma non lo so. Forte. Che spopola su internet, condivide anche la russa, ma non solo la russa, condivide un sacco di gente le sue tesi esposte al Parlamento europeo. Per esempio, quella su Van Rompuy, anzi no, avete sostituito Berlusconi con Monti, ma lo dice naturalmente in senso negativo. Sentiamo. E non soddisfatti di questo, avete deciso che Berlusconi doveva partire. Quindi è stato destituito e rimpiazzato per Mr. Monti, un vecchio commissario europeo, un architetto affiliato a questo eurodisastro, un uomo che non era neanche membro del Parlamento. Diventa come un romanzo di Agatha Christie, dove cerchiamo di stabilire chi è la prossima persona che sarà liquidata. La differenza è che noi sappiamo chi sono i cattivi. Voi dovreste tutti essere ritenuti responsabili di quello che avete fatto, dovreste essere tutti licenziati. Beh, bene, siamo qui, primo ospite della serata, caro Parenzo, ricordiamo il numero 800240024, l'ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, buonasera. Buonasera. Ma come che onore, io sono emozionato veramente. Come sta Bertinotti? Come ma scusa, sta? Me lo dicevi prima, non mi vedeva fa chicchi chicco, come presidente Bertinotti. Io voglio che ti sfoghi, che fai, che sei. Ma dovevi dirmi uno chi c'era. Uno non deve fingere, devi essere sempre te stesso. È una sempre persona così elegante. Senta, presidente, le voglio chiedere subito una cosa, lei sente questi giorni, anche lei che è stato presidente della Camera, come li sento io, come un po' una sospensione della democrazia? Sì, la condizione di riconoscere che è una sospensione che dura da parecchio tempo, cioè anche non è cominciata adesso, insomma, non mettiamola troppo sul pesante, però almeno diciamo un quarto di secolo in cui in Italia la democrazia si è impoverita in maniera crescente, mi pare che sia difficile da negare. Basti pensare alla diminuzione del ruolo del Parlamento nei confronti dell'esecutivo, basta pensare all'indebolimento delle assemblee elettive, alla svalutazione del conflitto sociale come elemento progressivo, insomma tutto questo. Poi da agosto a me pare che siamo dentro una condizione che può essere definita in molti modi, ma certamente non come democratica. Io penso, se il termine non è troppo aspro, che noi abbiamo vissuto uno strisciante golpe bianco da parte di chi? Cominciato in agosto da parte della tecnocrazia europea, personificata attorno alla Banca Centrale Europea, che si appoggia all'asse franco-tedesco e sull'asse franco-tedesco e sulla Banca Centrale Europea, il partito degli investitori istituzionali, quelli che Keynes chiamava gli speculatori istituzionali, che ha costituito un'oligarchia che oggi governa l'Europa, non l'Italia, l'Europa. Cioè, era più ma facile. Questo è il governo Monti, è il culmine di questa di questo golpe, di quello che lei chiama il golpe bianco? Il governo Monti è l'esito di questa vicenda, cominciata con Parlamento che è stato indotto a votare in un periodo dato e a saldi fissati il primo provvedimento economico di ripianamento del debito, che è passato attraverso l'accettazione della lettera della BCE, vorrei ricordare che è stata definita molto autorevolmente dal presidente Monti un governo fatto dal podestà forestiero, usando una formula medievale però assai pertinente. E che un altro grande commentatore come Eugenio Scalfari ha parlato di un regime di commissariamento sempre in quei dintorni. Quindi possiamo dire che sostanzialmente il puparo sarebbe la Banca Centrale Europea e il burattino è Monti. No, perché burattino? Cioè, se c'è un puparo. Burattino no, partner di questa impresa, esattamente come l'attuale ministro della Grecia e in qualche misura anche almeno come beneficiario dell'operazione il presidente pure eletto nelle elezioni spagnole. Senta, Monti come lo considera lei? Cioè un uomo di spiccate qualità, di notevole intelligenza politica oltre che economica, che guida un'operazione che a me sembra un'operazione di marca restauratrice. Ma potrebbe essere un ministro di un ipotetico governo di centrosinistra in futuro? Beh, guardi, in realtà si potrebbe dire il contrario. Il centrosinistra può essere il nuovo servitore di una politica come quella che personifica Monti, tocca al centrosinistra rispondere. Ecco, perché il Partito Democratico è così? È quello che sta facendo, ma compie una cosa molto grave. Perché il Partito Democratico è così entusiasta del governo Monti? Lei si è dato una spiegazione? Guardi, il governo Monti gode oggi di un grande favore, non solo da parte del PD, di opinione. No, di opinione. L'opinione del paese è indubbiamente molto favorevole a questa cosa. Giocano molti fattori, il primo dei quali è ovviamente il grande sospiro di sollievo perché è finita l'era Berlusconi. Quindi c'è una parte grande del paese, compreso una parte di coloro che avevano sostenuto Berlusconi nella prima e più corposa parte della sua impresa, che ha considerato qualsiasi cosa preferibile alla continuazione del governo Berlusconi stesso. Quindi c'è indubbiamente una rendita di posizione per la nuova situazione ereditata dal grave dissenso persino diciamo asprezza di giudizio, peraltro ipermotivata nei confronti del governo precedente. Poi c'è una condizione indotta da un clima di opinione contro la politica, che è di paura. uno ha paura del futuro, ha paura di cosa gli succede. Senta, le faccio una domanda. Paura, sì, certo. Quando uno ha paura tende ad affidarsi. Sì. Se c'è la nave, se c'è una nave con il mare in burrasca e peraltro la nave ha qualche avaria, è evidente che si pensa di potersi, come prima impressione, di affidarsi a un condottiero. Diciamo forte, apprezzabile, sì. E indubbiamente Monti lo è. La paura concorre, sì. Inoltre c'è il fatto che, questa però è un'opinione molto personale, sì, sì. Che la sinistra in Europa negli ultimi decenni ha dismesso progressivamente una sua capacità di lettura critica dei processi, sì. Economici e sociali, per cui è disarmata, è totalmente disarmata, cioè non sa dire Papa Andrei, una cosa Zapatero. Radicalmente diversa. Via. Da quella che dice la Banca Centrale Europea, bisogna affidarsi agli indignados per avere una piattaforma radicalmente diversa, oppure agli studenti medi che manifestano a Roma nelle città italiane contro. Ho capito. Cioè quella è la sinistra? Quella è la sinistra sociale, la sinistra politica oggi mi sembra totalmente impotente. Appiattita sulle posizioni della BCE. Senta, in qualche secondo, secondo lei però davvero, da un punto di vista anche generale, il governo, vista l'operazione che secondo lei si sta verificando con il governo Monti, quello che ci ha spiegato, si può dire che era meglio comunque il governo Berlusconi del governo Monti? Così si mette, non lo dico a lei, non si, sì. La sento dire spesso, così certo si mette fine alla discussione, perché peggio del governo Berlusconi non si può immaginare. Cioè è comunque meglio un governo della BCE che il governo Berlusconi? No, non è meglio, fatto salvo che è inutile fare un paragone con il peggio, bisogna discutere non se è meglio del peggio, perché va da sé, ma invece se questa ipotesi di politica sociale ed economica è in grado A, di affrontare la crisi che c'è, in Europa, e B, di dare una risposta ai problemi di giustizia, di equità che stanno esplodendo in tutti i paesi europei. Però almeno con Berlusconi, Presidente, almeno con Berlusconi c'era un bel pezzo di opposizione, oggi all'opposizione c'è solo la Lega. Solo un attimo solo, torniamo dopo il traffico. Eccoci qui, 1848 800 24 0024. Cosa le fa pensare, Presidente Bertinotti, il fatto che ci sia Corrado Passera, ex amministratore delegato di Banca Intesa, banchiere, eccetera, eccetera, allo sviluppo economico, protagonista della vicenda all'Italia, peraltro, come lei sa, alla guida di un ministero importante, anzi di due, qualcuno dice addirittura cinque ministeri importanti. Cosa le fa venire in mente? Mi sembra una scelta coerente con uno schema di un governo, appunto, con una fortissima connotazione tecnocratica, in sintonia con il governo europeo, con la Commissione europea, con la Banca Centrale, con gli assetti, diciamo, di direzione intergovernativa europea. Dentro questo schema, questo governo è un governo coerente, trovo che lo schema sia totalmente, diciamo, coerente, da accettare, sì. ma una volta accettato lo schema c'è una buona coerenza interna, ma il problema è lo schema. Certo, si può parlare di governo, di governo fantoccio, di governo fantoccio, no, un'espressione eccessiva? No, grande protagonista. E poi l'idea di sottovalutare ciò a cui si è avversi, io penso sia un errore tragico. Cioè non bisogna sottovalutare... Io non mi sento lontanissimo. Penso che rispetto e stimo molto per capacità questo governo, da cui dissenso radicalmente nella impostazione politica e programmatica. Per cui penso che farà male al paese, ma non per ragioni che riguardano le capacità dei suoi singoli componenti, ma per l'ipotesi politica su cui lavora. I sindacati, per esempio la CGIL, che sicuramente è più vicino magari alle sue posizioni storicamente, cosa dovrebbero fare davanti a questo governo? Ma io penso che il paese dovrebbe andare all'opposizione, e lei prima citava l'opposizione della Lega sul terreno parlamentare, questi tipi di governo è chiaro che muovono anche un'opposizione, diciamo, da destra sul terreno populistico, se si può dire così, e muovono invece in tutto l'Occidente una grande opposizione sociale, da Wall Street a Madrid, a Roma, alla Grecia. Quindi lei immagina un periodo di scioperi, di proteste? Questa opposizione sociale, secondo me, può e deve consolidarsi, costruendo però anche delle proposte alternative. Adesso gli Occupy Wall Street stanno producendo moltissimi materiali, che è stato preso molto in considerazione, per esempio, da un giornale come 24 Ore in Italia, che le ha criticate, ma li ha guardate con grande attenzione, diversamente dall'atteggiamento un po' grottesco, insomma, di una parte della politica che non sa guardare ad elementi di verità e di forza che stanno venendo da un mondo come quello prevalentemente giovanile. Sì, aggiungo poi che la politica sembra impermeabile non solo ai movimenti, ma anche al pensiero accademico. Pochi giorni fa più di 100 economisti italiani, da Marcello De Cecco Andrea Ginzburg a Longhini, un ampissimo schieramento di economisti di scuola sostanzialmente keynesiana, hanno motivato con una lettera una idea di politica economica per l'Europa alternativa a quella della BCE, diversa, totalmente radicalmente. Senti, domenica ho letto sempre sul 24 ore un articolo di Guido Rossi, che non è il leader degli indignati, ovviamente, in cui proponeva una linea di politica economica tutto affatto diversa da quella della BCE. Quindi diciamo non è vero che non esistono le alternative, è che noi in questa sospensione della democrazia siamo andati nella direzione precisamente. Ma le manca, faccio una domanda un po' più frivola, Presidente, ma non le manca un po' essere dentro l'agone in questa bella fase in cui insomma la sinistra potrebbe tornare in piazza, lei? Cioè, dici dentro il Parlamento? No, anche ci sono, perché la piazza mi appartiene, non mi appartiene il Parlamento, la direzione politica, perché a proposito ci sono uomini per tutte le stagioni. Ecco, a proposito di questo, perché no, il 26 ci sarà questa assemblea al Teatro Valle per il lancio di un referendum per abrogare il ritorno di Bertinotti. Senta, Presidente, Presidente, il suo successore Fini aveva detto che dopo le dimissioni di Berlusconi si sarebbe dimesso, è entrato in pieno con il terzo polo nella discussione politica. Secondo il suo modo di vedere si dovrebbe dimettere? Trovo che proprio una clausola di stile sia quella di non commentare i successori, gli ex possono parlare solo della loro esperienza. Vabbè, però insomma, voglio dire, lei l'avrebbe fatto, cioè avrebbe fatto politica a tempo pieno, come fa politica la si fa sempre, a tempo pieno? Io ho fatto quel che ho fatto, e chi ha seguito con qualche interesse la mia vicenda sa cosa ho fatto, è una cosa che difendo, perché io ho sempre pensato che un ruolo istituzionale richiedesse in qualche misura una distanza dalla direzione politica diretta, però riconosco anche che questi che abbiamo vissuti qui sono periodi così eccezionali che poi possono per esempio dar luogo al governo dei tecnici. Lei avrebbe mai immaginato che l'Italia potesse essere governata da un governo di tecnici? No. Contro il parere autorevole di uno dei più grandi filosofi che l'Italia ha avuto, come Benedetto Croce, che ha scritto contro il governo dei tecnici le sue righe più graffianti e più ferocci. Però senta, il grande Bertinotti che cita Don Benedetto, il padre del liberalismo, è strepitoso. Senta Bertinotti, ma un'ultima cosa, Berlusconi, dato adesso una cosa veramente frivola, però che cosa si augura per Berlusconi? Che faccia bene il presidente del Milan da tifoso milanista? Che faccia il nonno? Che non si occupi più di politica? Se i miei desideri avessero un qualche peso, avrebbe fatto solamente il presidente del Milan. Anche prima, e adesso invece pure. Ma sta invecchiando male Berlusconi, secondo lei? Da presidente del consiglio sì. E sull'altro versante, diciamo, quello più umano, intimo umano, diciamo, in base a quello che abbiamo letto sui giornali, la signorina Ruby Rubacuori. Siccome siamo sempre su quelle citazioni, vale anche la formula di saggezza antica, che si discutono i peccati ma non i peccatori, a quella formula i peccati sono evidenti. I peccati sono evidenti. Senta, lei se lo toglierebbe il vitalizio, per concludere? Oddio, se mi dessero qualcos'altro per vivere, sì. Se mi dessero una pensione per vivere, sì. Io penso, avendo lavorato una vita, di aver diritto a una pensione. Poi come si chiami, cioè è giusto il suo vitalizio, è corretto, e che sia congrua, diciamo così, con ciò che ho versato. Per parte mia avevo già proposto fin dalla scorsa legislatura l'eliminazione dei vitalizi a partire dalla nuova legislatura, perché appunto si tratta di un nuovo contratto. Bene, grazie. Chi vuole fare parlamentare può benissimo sapere che deve rinunciare al vitalizio. Grazie Presidente, grazie, Presidente. Grazie a loro. Siamo qui qui, siamo qui la Zanzara 800240024. Prima di mandare il titolo del TG3, caro Parenzo. Che ore sono? Le 19:17. Ecco, perché se non dici l'orario mi dispiace. No, hai ragione. Prima di mandare il titolo del TG3 vorrei però sentire proprio al volo qualche ascoltatore. Sì. Marta da Roma, per esempio. Marta, prima del titolo del TG3 non c'è più. Giulio dalla provincia di Milano, allora. Giulio o Giulia? Eh? No, Cosmo da Milano, Cosmo. Sono Cosmo Trano, buonasera. Sì, dica. Allora, aggiorno l'intervento che avrei voluto fare venerdì, sulla scia del vostro applauso rivolto a Massimo Cacciari, sì, che appunto lo qualifica in senso negativo. Io gli attribuisco le responsabilità totali del disastro in cui ci troviamo a partire dal 2000, dall'anno 2000, quando durante l'estate... Responsabile del disastro Cacciari. Delegittimazione contro Giuliano Amato. Ma di che sta parlando? Scusi, lei è da molto... Rutelli. Ma lei, scusi, Rutelli, fa uso di alcolici da molto tempo? Lei più fa queste battute e dimostra che io ho ragione. No, lei chiedo. Scusi, Cosmo, portatelo via. Scusi, Cosmo, non ho capito bene. Lei attribuisce quale responsabilità al professor Cacciari? Ma cosa chiede a Cosmo adesso? Innanzitutto è un filosofo, per modo di dire, laureato in filosofia, ma non assolutamente filosofo. Sì. Filosofo per i rinco. E lui nel 2000. Ma lei dove si trova? Scusi, caro Cosmo, dove si trova? In che... Più fate queste battute, più al cospetto degli ascoltatori, più dimostrate di aver torto. Sì, si calmi, chiudere questo, si calmi, stiamo arrivando. Si sappia che è opera simoniaca, ipocriti, sepolcri imbiancati, tutto quanto frequentemente da mesi. Camicia bianca dalla subito, radio, quella che si chiude davanti. Mario Galgiati e Dania, circa un'azione esterna di blocco delle linee telefoniche. Invece è vero che per ostracismo, la sistematica interruzione delle telefonate con impedimento della comunicazione e esercizio degli incaricati di Don Mario Galgiati, in primis dalla stessa Dania, abietta artefice subito dell'immonda farsa d'ora in scena. Soprani pensieri@yahoo.com per sapere Per carità, subito. Ecco, stiamo arrivando. Non si preoccupi, calmo. Sia calmo, tranquillo. Veloci con l'ambulanza, veloci. Ci vuole anche una bella, no? Subito un'iniezioncina in endovena. Come fosse Antani. Iniezioncina con laccio, subito. Cosmo, non si preoccupi, abbiamo il telefonino. Abbiamo dato il suo telefonino a chi di dovere. In qualche caso. La verremo a trovare lì. Verremo lì a trovarla, amico mio. Verremo lì. Titoli del TG3. Mamma mia. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Borsa di Milano a picco, meno 5%, giù Finmeccanica anche per effetto degli sviluppi dell'inchiesta ENAV, lo spread sui 480 punti. Disdetti dalla Fiat gli accordi sindacali, il modello pomigliano dal 1 gennaio esteso in tutti gli stabilimenti, la FIOM, azioni legali e denunce. La prima riunione del governo, Monti, decisioni collegiali, misure rapide, decisive le Camere, da domani missione europea, Obama fiducia a Monti. Dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto su Roma Capitale, la Lega protesta una scelta di spesa orgogliosi di averla stoppata finora. Bersani, sia patrimoniale lotta all'evasione, discutiamo di pensioni con uscita flessibile, non mettiamo condizioni e non ne accettiamo dal PDL. Almeno 40 morti e migliaia di feriti in piazza Tahrir al Cairo, al terzo giorno di scontri tra manifestanti e polizia, sotto accusa la giunta militare. Le 32 ragazze delle scene di Arcore devono ritenersi parte offesa, lo ha stabilito la Corte al processo contro Fede, Mora e Laminetti. Pronto? Segretario Bonanni? Sì. Buonasera, sono gli uffici dell'onorevole Umberto Bossi. L'onorevole vorrebbe parlarle, possiamo passarglielo? Grazie. Glielo passo un attimo. Buonanotte, pronto? Pronto, onorevole, come va? Buonasera intanto. Volevo soltanto bene, grazie. Volevo confrontarmi un attimo con lei su tutta questa vicenda delle pensioni. Benissimo. Scusa, non ci davo del tu? Sì, però questa fase qui, volentieri. Ti ringrazio. Volevo cominciare a fare un ragionamento un po' più serio sulla questione delle pensioni, perché per noi è davvero una situazione insostenibile anche per la nostra base sociale del paese, sì, sì. Le pensioni di anzianità. Io mi auguro che con te si possa cominciare a costruire anche in questa fase in cui noi siamo un po' fuori, non possiamo fare diversamente. Che succede? Che è una cosa, è un momento un po' difficile. Sì, per adesso noi non abbiamo avuto nessun discorso col governo, perché questi adesso neanche si sono seduti, e quindi stiamo più che altro noi dentro il sindacato cercando di capire come uscirne da questa storia, perché è chiaro, questo lo capisci anche tu, la pressione sarà forte, molto forte sulla vicenda previdenziale. L'orientamento che abbiamo noi qual è? È quella di non fossilizzarci solo su un argomento, no? È chiaro che la mia base dice le stesse cose che dicono a te, perché è la stessa base quella che abbiamo, no? I problemi sono gli stessi, e io penso che dobbiamo costruire una cosa anche con calma, ognuno per parte propria, però dobbiamo mettere insieme le forze. Ma secondo te verranno toccate queste pensioni o no? I miei pure dicono: stiamo attenti a non superare i 40, stiamo attenti a non andare oltre i 60, tutte queste cose qui. E ora questo inserisce il problema del contributivo. Ora noi non sappiamo dove vogliono portare il pallino loro, però noi ci siamo organizzati in modo tale da attenuare queste cose qui, ma allo stesso tempo porre dei problemi che sono, primo, che è un problema che hai sollevato pure tu quest'estate, no? Sì. Che la vicenda della previdenza integrativa per i giovani. Siamo stati i primi, cazzo, devo dire, io tra l'altro già quando c'era Padova Scopa, ti ricordi? Non riesco a parlare mai con Monti, perché è una fase difficile, ce l'ha con noi, non riesco a parlare con Monti, però ho capito. Noi dobbiamo fare una manifestazione grossa, devo preparare una grossa, adesso qui con Calderoli, eravamo qua prima, a parlare una manifestazione un po' grossa, quindi, da fare al nord. Noi, per esempio, diremo questo, vogliamo la previdenza integrativa obbligatoria e vogliamo dimezzare le tasse che si pagano, per esempio, sui fondi. Perché se no a sti giovani non gli diamo niente, fanno chiacchiere. La verità vera è che le banche sono ostili a questa posizione, no? E invece questa è l'unica cosa. Io devo dire la verità, chi mi aiutò moltissimo allora per trasformare il silenzio a senso, a come abbiamo fatto, è stato Maroni. È stato bravissimo. A me la roba che mi preoccupa di più, Bonanni, è il fatto che e le pensioni di anzianità, se toccano quelle siamo fottuti, ci mandano a casa. Sì, l'altra questione, onorevole, è per esempio circa 1 milione di persone che sono nei fondi speciali, e questi qui non sono stati modificati neanche dalla Dini. Un milione di persone circa, sono per esattezza 850.000 persone, sono i magistrati, sono i giornalisti, sono tutti questi qui, 850. Questi rompono il cazzo ogni volta contro di noi, contro i lavoratori dipendenti, però loro hanno fatto quello che hanno voluto. L'altra questione è che noi vorremmo. Sono delle merde, la vera casta è quella roba lì. Esattamente. Poi diciamo che bisogna unificare, armonizzare i contributi, e quando vediamo questo poi discutiamo di come affrontare il problema, naturalmente puntando almeno garantire i 40 anni e i 60 anni. Ma io ho paura, però, che qua saltato qui, questi qui vanno con la quarta, mettono la quarta. Però onorevole, io dico questo, se noi diciamo solo no a una cosa, noi li aiutiamo a questi, perché a quel punto non hanno interesse a discutere altro, invece li dobbiamo stanare per discutere di tutto. Ora ti voglio dire questo, se tu mi dici con chi devo parlare dei tuoi, la persona di cui ti fidi, possiamo incontrarci, cambiare opinioni tecniche e anche politiche. Io ti sono grato davvero, perché questo problema lo dobbiamo affrontare bene. Perché era un po' che non ci si sentiva, era un po' sì, sì. Bisogna riprendere i fili del dialogo. Bisogna parlare con Maroni un po', bisogna capire con Maroni. Adesso io con Roberto problema, ho un rapporto. Io il problema lì che adesso devo sistemare con Maroni. Se tu mi dici di parlare con Roberto, io mi sento a mio agio, perché siamo anche amici personali, quindi c'ho un ottimo rapporto con lui. Io stimo per lui, lo stimo anche per me, senz'altro. Volevo sapere se avevi parlato con Monti recentemente, con Monti. No, con Monti ancora no, perché non l'ho chiamato neanche, perché lui, capisco che se parla adesso non mi dice niente, perché questo deve prima rendersi conto dove si trova, no? a fare un incontro magari settimana prossima a Roma, io, Roberto, porto anche Renzo. Ci vediamo dove vuoi tu. Voleva conoscere anche Renzo. Andiamo, vieni con Renzo, lo portiamo giù. Vabbè. Ah, benissimo, benissimo, mi fa piacere. Intanto volevo dirti grazie. Grazie a te. Devo fare una manifestazione. No, io intanto siamo un po' così con la padania, però insomma bisogna parlare di robe serie. Sì, beh, senz'altro, senz'altro. Tu sai che abbiamo avuto sempre stima e sempre abbiamo avuto un ottimo rapporto. Io ti ringrazio, ti abbraccio forte. Ti grazie abbraccio. A te, un abbraccio a te. Ti abbraccio. Ciao, a presto allora. Ciao, ciao. Ma che è successo? Però, un'intercettazione telefonica. Cosa è successo adesso? Che è successo? Che è successo? È così, una voce di. No, noi stiamo parlando. Ma noi stiamo certo parlando. Poi c'è entrata la segreteria di Bossi. Sì. E che ha chiamato, non ho capito se Bonanni della CISL. Sì, il segretario della CISL. E hanno parlato. È entrata dentro. Io non lo so perché poi è andato un attimo a prendere un caffè, non ho capito. Bah. Una cosa pazzesca. Le solite cose, non si capisce. Bah. È la zanzara questa, no? Sì, sempre, mi sembra di sì, è sempre. No, chiedo a lei che lei il massimo demiurgo. Ogni tanto ci sono delle intercettazioni telefoniche che arrivano, che piombano dall'alto. È lei il puparo, caro Cruciani. Sentiamo dov'è il signor puparo? Mauro da Chieti. Voglio sentire Mauro da Chieti. Conosco Mauro Crippa. Chi è? No, Mauro Crippa che c'è. Chi è Mauro da Chieti, dica. Non conosco Mauro da Chieti. Salve. Dica. Mauro Bottarelli. Stavo ascoltando Bonanni e Bossi e... Ero appisolato un attimo. Beh, appisolato. Però... Se era appisolato, sì, certo. Vabbè. No, prima ascoltavo il caro Bertinotti, no? Sì, sì. Però, guardi, noi abbiamo un'interruzione perché c'è la borsa che è molto importante a quest'ora, Resti lì. Io voglio controllare che cosa è successo, perché ogni volta ci sono queste interferenze maledette ed entrano delle telefonate in attese. Cioè, i telefoni fanno. C'è un cortocircuito telefonico. Un cortocircuito e dentro la frequenza della radio entrano queste telefonate private. Che insomma, no? No, è incredibile, infatti, sì. Bah. Verificano, sì. Eccoci qui, 19.35 800 24 00 24. Eravamo con qui alla Zanzara. C'era? Con Mauro da Chieti. Allora, caro Mauro, non mi replichi. Buonasera. L'ascoltatore di prima, il primo ascoltatore che abbracciamo naturalmente. Fortissimo. Ma spero che l'ambulanza sia già arrivata, perché era piuttosto grave. Citava siti internet. No, l'hanno già portato complotti via. Complotti di non so che tipo. Lei ha capito qualcosa dell'intervento? Non l'ho sentito, quindi non so. L'hanno già portato via. Vabbè, vada. No, vabbè, prima ho sentito Bertinotti, stavo guidando, così mi è venuto un po' il sangue agli occhi, diciamo. Perché? Addirittura? Che ha detto il signor prima Bertinotti? Prima ha detto una cosa che, dico, ha messo in dubbio che per gli ultimi 25 anni ci fosse democrazia, no? Ma fino a prova contraria non era presidente della Camera lui? Sì, effettivamente mano a mano la democrazia è scemata negli ultimi 25 anni, questo ha detto, ma sono le teorie di Bertinotti. È stato presidente della Camera, credo. Sì, sì, infatti. Se ne è reso conto solo adesso. E poi un'altra cosa. Che c'è una democrazia formale e una democrazia sostanziale. Dunque? Sento con l'eco, quindi mi scusi. Questa cosa del vitalizio, se mi date un altro modo di come vivere, non so come ha detto, no? Voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sicuramente avranno degli ingressi, che sono più che sufficienti per vivere, quindi anche lamentarsi sta cosa. Non si è lamentato, ha detto se lei ha pagato vorrebbe rinunciare al vitalizio, siccome si parla di taglio del vitalizio dei parlamentari o di eliminazione del vitalizio. Io conosco la sua famiglia anche personalmente, diciamo in qualche modo, non lui direttamente. Lui ha fatto allora? Il sindacalista per tanti anni per la CGL. Cioè lui ha detto se mi danno un altro stipendio per vivere, allora io rinuncio volentieri. Io credo che questa gente comunque vive abbastanza bene. Io dico semplicemente che mi ha fatto un po' vergognare di essere di sinistra. Quasi mi viene voglia di dare ragione a un liberista insopportabile come lei, capisci, in questi momenti. Liberista insopportabile. Questa non è male, l'apprezzo. Sì, grazie sì. Mauro. Simone sempre da Chieti, anzi prima Giuseppe da Pescara, ci sono un sacco di abruzzesi stasera. Giuseppe, dica. Infatti l'Abruzzo imperversa questa sera. Prego, prego, vada. Guardate, allora, innanzitutto una considerazione semiseria. È possibile che dopo tutte le vicende, non ultimo Bini Smaghi, la nostra classe dirigente non abbia capito lo scherzetto e continui a credere alle persone? Ma quale scherzo? Quale scherzo, scusi? Quale scherzo, cosa? Scusa. Allora, le intercettazioni, vabbè. Quale scherzo? Non ho capito cosa fa riferimento. Non ho capito cosa fa riferimento, scusi. Ha fatto, vabbè, niente, comunque dica, ah, Bonanni, l'intercettazione di Bonanni con Bossi. Bonanni. È una cosa, stiamo aprendo un fascicolo per fare un'inchiesta, per capire com'è possibile. Magari, con una camicia di forza, vabbè. Una considerazione seria a proposito della polemica sull'intervento della Comunità Europea, dell'Unione Europea sulla politica italiana. Per tanti anni ho sentito sempre gente che si lamentava sul fatto che la Comunità Europea è rimasta sulla carta, che era una comunità di mercati, di finanza, che non era una comunità di popoli, che non era una comunità di cultura, che non era una comunità. Allora? Non è che ci vuole fare la lezione sull'Unione Europea adesso? No, lezio magistralis. Secondo me questo può essere considerata una limatura delle autonomie politiche degli stati nazionali. Che vuol dire una limatura delle autonomie politiche? Cioè l'esistenza dei governi tecnici? Si arriverà a un punto in cui si avrà finalmente un governo europeo e una federazione di stati europei. Questo è buono. Vabbè, insomma, approfondiamo, approfondiamolo come tema. Il futuro dovrebbe essere questo, vabbè. Sì, dalla formazione del governo Monti, magari dalla formazione del governo greco, lei fa discendere questa considerazione. Sì, anche poi in futuro quello del Portogallo, probabilmente della Francia. Questo è interessante, discorso geopolitico interessantissimo. Poi sfoceranno in un futuro più o meno prossimo in un governo unico europeo. Bene, grazie. No, ma teniamolo, perché grazie? Maurizio da Napoli, grazie. Signor Maurizio, dica. Buonasera. Buonasera. Una breve considerazione. Mi piange il cuore dalla fine del governo Berlusconi, perché non avete tanti argomenti simpatici da... Ma noi siamo in piena forma, guardi. Stiamo ancora lottando. Certo, qualche difficoltà c'è, non c'è dubbio, qualche piccola difficoltà c'è. Però ce la caviamo, sopravviveremo, caro Maurizio. Vabbè, ma... Cosentino, insomma. Cosentino, che c'entra Cosentino? Chi ha parlato Chi ha parlato di Cosentino? No, dico con la mancanza di Cosentino, Aminetti, Milanese. Ma Cosentino non parlava mai, cioè se ne occupava la magistratura di Cosentino. Vabbè, faceva però, faceva tantissimo. Faceva quello che voleva fare comunque, lui. Mi dispiace che non avete più argomenti simpatici. Ma chi l'ha detto? Siamo qui. Ma come è così triste? Perché mi sta portando una ieri addosso, pazzesca. Non si intristisca. Allora, guardi, per non farla intristire, andiamo a sentire qualche cosa. Fai battagliare. Sentiamo anche... Mi dispiace quando sento una persona... La sigletta di Vendola, ce l'abbiamo? Via. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Ebbene, le frasi di Vendola, ma che stai a dì? Titolava una fortunata rubrica del Foglio di Giuliana Ferrara, forse mutuata da questa trasmissione che per prima inaugurò le frasi storiche e incomprensibili. Bisogna dargliene atto, direttorissimo. Lei... Filosofiche del signor Vendola. Lei... Per esempio, c'è uno spread anche negli ecosistemi feriti. Cioè? Non lo so, sentiamo. Non ho capito. O uno mette insieme la crisi economico-finanziaria con la crisi sociale, con la crisi ambientale, per dire c'è uno spread anche negli ecosistemi feriti, c'è uno spread anche in quelle famiglie che oggi si sentono proiettate verso una condizione di precarietà totale. Chiaro, ha ragione. È chiaro, l'hai capito? È evidente. Allora, sondaggio della sera, avete capito che cos'è lo spread negli ecosistemi feriti? No, ma cos'è? È come dire, ma nelle famiglie è come dire, andiamo a ritrovare le ragioni vere del malessere, che non sono soltanto aridi numeri, non è soltanto un indice di borsa, è la vita delle persone. Questa forse è più comprensibile, finita l'epoca commercial pornografica. Beh, questo... L'idea che non ci sia più un governo con i tacchi a spillo e con un linguaggio addizionato di Viagra, ecco, a me personalmente fa piacere, è finita un'epoca volgare, un'epoca commercial pornografica che ci ha umiliato ogni giorno, che ha detto che ogni momento si superava una soglia della decenza. Beh, le pare poco quello che ancora ci regala la politica, caro Maurizio. Non dimenticate stiamo vivendo, va. No, no, aspetti, aspetti, ci sono anche quelli che continuano a essere ossessionati. Per esempio, la signora Concita De Gregorio, le voglio far ascoltare. Sì. Sabato, non mi ricordo dove, credo da che tempo che fa, da Fabio Fazio, e danno degli ultimi vent'anni. Berlusconi, naturalmente, cioè Berlusconi è caduto, il governo è caduto, però alcuni ancora continuano a parlare, naturalmente, di Berlusconi. Cioè, ci siamo dimenticati delle nostre vite negli ultimi vent'anni. Veramente non me ne sono dimenticato, no, ho vissuto la grandissima. Ma poi la grandissima, tu hai vissuto la grandissima. Ma sì, sì, con alti e bassi, come capita. Però di tutti. Verità, hai vissuto la grandissima. Ma la, sì, sì, non è che sì, mi sentivo Berlusconi. Sentiamo. Il danno che noi abbiamo avuto in questi ultimi vent'anni di ossessione folle è stato anche quello di dimenticarci delle nostre vite, dimenticarci delle nostre passioni, dimenticarci dei nostri bisogni, dei nostri desideri, di quello che amiamo, di quello che ci piace, di quello che ci addolora. Certo. Ma come certo? Ma di che faccio? Ha detto certo, perché amico mio! Ma di che parliamo? Tu ti sei dimenticato delle tue passioni, dei nostri amori, delle... Ma io voglio risentire questa frase. Mi stai caricando, sentita. Quando fai così direttamente? È la frase del giorno, sì, è la frase del giorno. Negli ultimi vent'anni ci siamo dimenticati delle nostre vite, delle nostre passioni. Bravo. Concita De Gregorio, via. Il danno che noi abbiamo avuto in questi ultimi vent'anni di ossessione folle è stato anche quello di dimenticarci delle nostre vite, dimenticarci delle nostre passioni, dimenticarci dei nostri bisogni, dei nostri desideri, di quello che amiamo, di quello che ci piace, di quello che ci addolora. Certo. Ma perché certo, dice Fazio? Siamo dimenticati dalle nostre passioni. È troppo bella questa frase. Ormai io non mi arrabbio nemmeno più. Una volta mi viperivo, dicevo che erano ossessionati. Questa non è la signora De Gregorio, no? È la fine di tutto, cioè non c'è più niente da dire dopo ci una frase. Siamo dimenticati delle nostre ossessioni. Sì. No, questa ossessione folle. Claudio da Vicenza. Claudio da Vicenza. Buonasera. Anzi no, c'era Maurizio da Napoli per concludere. Ha abbassato il telefono. Va bene, Claudio da Vicenza. Prego, Claudio. Sì, salve, buonasera. Dica, dica. Allora, niente, io parlo da uomo di destra, non di centro, perché sì, secondo me sia il centrodestra che il centrosinistra sono due cose uguali. Quando uno dice centrodestra e centrosinistra, sempre il centro stai. Io ho sentito parlare Bertinotti e devo dire la sincera verità, da uomo di destra, se un domani dovessi cambiare veramente e andare a votare qualcuno, vorrei che ci fosse uno come Bertinotti, ecco. Perché sai, è sempre stato una persona, perché è sempre stato coerente sulle sue idee. E le persone coerenti sono quelle che a cui bisogna dare il voto. Io ma guardi, che è coerente, si è sempre discostato poco da quello che ha detto e da quello che ha fatto Bertinotti. Lei dice, Lei dice. Sì, secondo me sì. Penso che si sia spostato poco dalle sue idee. Ho sentito il discorso iniziale che ha fatto Bertinotti per quanto riguarda la democrazia. Sì. E secondo me il signor Parenzo ha veramente la coda di paglia. Perché che ha fatto Parenzo? Perché se lo stesso discorso che ha fatto Bertinotti l'avesse fatto un uomo di destra, Parenzo avrebbe chiamato, ma veramente avrebbe chiamato l'ambulanza. Beh, infatti qualcuno. No, non credo alla sospensione della democrazia. Ma io un po' ci credo per questo, per quello che riguarda. Io sostengo. Non riesce a dire in faccia alle persone che magari a lei vanno a genio, ma non va a genio, non mi va a genio, signor Bertinotti. Una volta che io sento che lei non mi va a genio, signor Bertinotti, non riesce. No, non ma penso guardi che non le vada a genio, anche perché quando il signor Cruciani ha detto che c'era Bertinotti, sembrava si stesse sciogliendo come un gelato. No, guardi, lei conosce la parola ironia? Allora, se va su Google scriva ironia. Caro Claudio, guardi, la tecnica è molto semplice. Qualche volta si lasciano parlare gli interlocutori e si combatte magari di più con gli ascoltatori, semplicemente per lasciar dire delle follie o per fare in modo che il pensiero un po' bizzarro di quella persona arrivi fino in fondo. Non è a condiscendenza. Comunque adesso non le voglio spiegare qual è la tecnica dell'intervista. Caro Claudio, la ringrazio e l'abbraccio forte. Anch'io abbraccio fortissimo Claudio. Le voglio anche bene, sa? Beh, adesso non esagero. No, le voglio bene, dalla voce gli voglio bene. C'è con noi Roberto Castelli da Lecco. Buonasera, senatore della Lega Nord. Buonasera. Come andiamo? Bergamasco, per l'esattezza. Dove si trova? Dov'è? A Cisano Bergamasco. Beh, pensavo fosse a Lecco. Dove io abito. Cisano Bergamasco. Non so chi è che mi aveva detto che era a Lecco. Mi hanno informato perché male. Ovviamente io le mie radici sono lecchese. No, no, questo lo sapevo. Vabbè, mi hanno detto che era alle mazze, ma non c'è niente. Vuoi emozionare? Perché sono Pignolo. Buonasera a tutti. Buonasera, ingegnere. Ingegnere Castelli, no? Sì, sì, certo che ingegnere. Non è che ha fatto liceo classico ed è ingegnere. Perché io, Castelli, ho un sogno: rivederla di nuovo con Scalfari. Cioè, lei quando battagliava con Eugenio. Ma già detto, Parezzo, non è ripetitivo. Insomma, io le voglio bene. Ti segue? Quando Scalfari le ha detto, lei con disprezzo. Sì, lei... Ma l'Alzheimer va bene per quelli che hanno la mia età, non per quelli giovani come lei. Già detto una volta. Castelli attacca Parenzo. No, senatore, il problema è molto semplice. Sì. È che ogni tanto Parenzo non è che ha una creatività continua, illimitata. Devo ripetere delle cose. C'è un aneddoto per ogni persona, non capito. Ogni tanto si ripete così. Senta, la sento un po' giù. Invece dovrebbe essere contento di essere all'opposizione, o no? Cioè... Ma sono contento di essere all'opposizione, ma sono molto preoccupato per ciò che questo governo. Sta facendo e per non ha fatto niente per adesso. Era arrivato Super Mario che doveva mettere a posto tutto. E invece? Oggi siamo di fronte a una giornata disastrosa, la borsa è volata piccolo, lo spread è salito, il governo si è riunito, io immaginavo per prendere queste misure urgenti, che tutti aspettavano, che Berlusconi non ha mai preso, che il governo nostro era assolutamente immobile. Beh, non abbiamo visto niente se non dare 350 milioni al Lazio. E questo direi che è veramente di una gravità assoluta e sconcertante. Beh, effettivamente hanno dato oggi il primo Consiglio dei Ministri alla questione di Roma Capitale. Magari l'avreste fatto anche voi, senatore Castelli. L'hanno fatto. Avete preparato voi il terreno. Io mi ricordo quando ho letto il decreto legislativo originario non era previsto una lira. Era una questione di natura normativa. E basta, tant'è vero che Calderoli oggi ha fatto un comunicato dicendo che aveva bloccato questo decreto. Ma, non c'è bisogno di questi soldi, non c'è bisogno di questi soldi per organizzare Roma. Il fatto grave è che di fronte al fatto che l'economia sta andando veramente a picco, io mi aspettavo che arrivasse questo governo e prendesse le famose misure salvistiche che ci avrebbero spinto verso le sorti magnifiche e progressive del paese, invece hanno fatto niente. Però devo dire la verità, non hanno fatto nulla. Io sulla questa questione qui, al di là del non ho paura a dirlo, la penso un po' come Castelli, perché ti spiego, caro Parenzo. La questione è molto semplice. Siccome questo governo è stato nominato dal Presidente della Repubblica, perché è un governo del Presidente, per varare misure urgenti, in teoria non avrebbe niente di cui discutere con i partiti, con i sindacati. Sì, ma c'è già troppa volontà di concertazione, di consenso, di cercare di qui, di là. Il Parlamento deve aiutare. No, il Parlamento quando siamo in emergenza non dovrebbe aiutare a fare nulla. Se la democrazia è sospesa, allora si facciano i decreti d'urgenza subito, se le cose sono chiare. Altrimenti invece si cincischia un po', poi magari nei giorni prossimi. C'è un po' di tatanella, come, però poi le cose le farà Castelli, cose impopolari che voi non avete avuto il coraggio di fare. Io ricordo che noi a agosto abbiamo fatto un decreto urgente in 4 giorni, abbiamo varato la legge di stabilità in altri 4 giorni. Certo, e in sole 24 ore, che uno dei principali sponsor di Monti usciva tutta pagina, fate presto. Adesso questo sappiamo, il professor Monti, che non ha fatto nulla oggi con Consiglio dei Ministri, però in compenso andrà in Europa a parlare con Sarkozy e la Merkel. Ma oggi era chiaro che andava fatto un decreto, noi avremmo fatto sicuramente così, avremmo fatto un ulteriore decreto urgente sulle questioni economiche. Cioè Monti è incapace per ora, secondo lei per ora questo Monti andava fatto. Secondo lei per ora il premier Monti è incapace e in ritardo. No, è incapace, è immobile. Senta, ma lei come la considera l'operazione Monti? Cioè di che tipo? Di quelli che pensano a una specie di complotto, golpe finanziario, si dice in Europa, oppure altro? Ma io non ho le prove, però diciamo un forte sospetto che la teoria del complotto possa essere vera esiste, non so se è vera, però sicuramente è verosimile. Sicuramente c'è una situazione eccezionale con una sorta di sospensione della democrazia, ma di questo io non sono appassionato a questo tema. Io sono più appassionato, da buon ingegnere che cerca di fare le cose, a ciò che un governo fa, non tanto del perché e il per come. Ecco, però voglio dire, uomo di Chimo, ecco, è noto che questo governo, che doveva essere il governo dei Nembo Kid, dei super, non sta facendo nulla. E questo è estremamente preoccupante, sì. E ci dà ragione alla Lega quando diceva che non occorreva fidarsi. Ripeto, l'unica cosa è stata fatta, guarda caso, secondo una politica, sì, vecchissima, di dare un po' di soldi a chi li spreca. Un po' di soldi, caso, un po' di soldi a Roma, a Roma e a Lazio. A Roma anche, no? Mi sembra, a Lazio. Mi sento molto lontani. No, ma a Roma, a Lazio, anche a Roma, credo, no? Non solo a Lazio, giusto? No, a me risulta che stai dando 350, sì, milioni per i soliti buchi della sanità che vengono continuamente fatti in queste regioni e che noi col federalismo, sì, fiscale, sì, fiscale stiamo cercando di fermare. Scusa, quindi, ma veramente un provvedimento secondo la moda vecchia e nulla di nuovo. Questo è un dato di fatto che è lì, è da vedere, incontrovertibile. Ripeto, di fronte a una giornata disastrosa dove, sì, le borse, soprattutto la borsa italiana, è colata a picco un'altra volta, lo spread è salito. Questo a dimostrazione di quante palle dicesse la sinistra, di come siano creduloni purtroppo gran parte dell'opinione pubblica, allora, italiana. Senatore Castelli, le mie parti si chiamano Gorgolani. Gorgolani, cioè chi sarebbero i Gorgolani? Creduloni. I creduloni, dice lei, creduloni. Sì. Senta, ma secondo Maroni l'alleanza è momentaneamente sospesa. Secondo lei è definitivamente sospesa l'alleanza col PDL? Oggi il presidente della regione Lombardia, Formigoni, dice: con la Lega si è chiusa una fase storica, in futuro alleanza su nuove basi. Io voglio capire una cosa: secondo lei c'è la possibilità di ritornare con questa alleanza oppure ci sarà una scomposizione totale? Da soli, Andrea, insomma, da soli. Dopo questa scelta del PDL di appoggiare Monti, è ancora un alleato affidabile o non è più nemmeno un alleato? No, a me pare che le questioni siano assolutamente separate. Maroni si riferisce evidentemente alla questione parlamentare, dove è un dato di fatto, sì, in maniera direi consensuale, sono state prese due strade, sì, diverse. Però sul territorio mi pare che laddove le cose vanno bene sarebbe anche abbastanza paradossale, no, certo, rompere l'alleanza, chiaramente rompere tutto. Quindi, però il futuro è ancora col PDL, la risposta? Se io conoscessi il futuro, a questo punto farei delle giocate all'otto, al totocalcio, non so, quindi adesso a parte la battuta scontata. Ma è un'alleanza finita a livello nazionale? È un'alleanza finita o no? Le mani libere, ha fatto alleanze in funzione programmatiche, quindi abbiamo le mani libere adesso? No, adesso non cominciamo a fare, adesso io un'altra cosa vorrei pregarvi, non fare agenzie strane. No, come agenzie strane? No, la risposta è abbiamo le mani libere, abbiamo, si mette nei guai. No, per carità, abbiamo le mani libere, non si mi dica se si sente le mani libere, lei. Libere. Ho detto che la Lega ha sempre fatto alleanze in funzione programmatica. Ecco. Dunque, quindi abbiamo le mani libere. Oggi vi sentite con le mani libere di fare alleanza con chiunque a livello nazionale che vi garantisce alcune cose, non è così strano, o no? Infatti il comunicato corretto è la Lega, Castelli dice la Lega ha sempre fatto alleanze in funzione del programma. Ci detta anche il comunicato, anche adesso, beh, abbiamo la no pubblicità. Perché poi le vostre ANAS rovina, è un'altra, no? Cosa, ma che rovina. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. In collegamento invece dalla provincia di Bergamo, Roberto Castelli della Lega Nord. No, ripeti da dove? Che ti ha detto, sì, il paese. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Cisano Bergamasco. Ecco, cortesemente non fate lanci di agenzia maliziosi. Ma perché ancora Castelli, due punti, sono a Cisano Bergamasco. Va bene così, no? Sono a Cisano Bergamasco. In funzione dei programmi, questo è. Avremo, cioè, vogliamo. No, abbiamo capito. Castelli, due punti, lascio la Lega. Abbiamo capito tutto. Cioè, potrei allearmi anche col PD. Per il federalismo, potrei allearmi anche col PD. Va bene. Si può dire così? Si può dire? Pronto? Pronto? No, stiamo scherzando. Sono basito. No, però è già accaduto in passato. No, ma non è accaduto affatto. Adesso se ci dice così, se ci dice così, ci offende. No, ci sfida. No, c'è notizia. Aspetta un attimo. Cioè, lei, io cioè, c'ero. Cioè, ora che avete le mani libere, in futuro potete, non succederà mai, perché ormai siamo su un altro piano, c'è cioè quello del governo di tutti dentro e chissà cosa succederà però dopo. Però in futuro, lei con le mani libere si potrebbe allare anche con il Partito Democratico? Ma guardi, la Lega è noto, cerca il federalismo, cerca maggiore libertà per la Padania, cerca di andare sulla strada della lotta agli sprechi. Cerca la lotta all'immigrazione clandestina, la e lotta l'indipendenza, alla criminalità, che e è d'accordo con questi nostri programmi. noi possiamo stipulare alleanze. Mi pare che quindi andate, andrete da soli, mi pare di capire qui. Ma ormai siete mi da pare soli. Che siete un po' da soli su questo ormai. Perché... questa è la nostra, questa è, diciamo. Ma non si sente la solo? La nostra azione programmatica. Non si sente da solo all'opposizione. Abbiamo dei compagni di strada come abbiamo trovato in questi anni con Berlusconi che onestamente non ci ha mai tradito perché ha votato la devoluzione. Ma ora un po' vi ha un po' tradito però. Legislatura 2001-2006 ha votato il federalismo fiscale in questa legislatura. Però vi ha deluso. Però adesso. Ora vi ha deluso. E adesso gli si è disfatto il partito e cioè voglio dire non credo che sia stato contento nemmeno lui, no? Però Berlusconi è il primo che dice il governo durerà l'altro giorno. Perché gli detto. Si è disfatto il partito? Non ho capito sta cosa. Cioè, hanno perso per strada quanti 35-40 deputati. Ah, alla ah Camera, dice dalla vicenda di Fini. Hanno poi. Perso la maggioranza. E a quel punto lì però il primo sostenitore del governo è Berlusconi non vi ha deluso con questo appoggio. Come? Non vi ha deluso con questo appoggio al governo Monti Berlusconi dice che durerà fino al 2013 Berlusconi il governo. Io guardi tendo a guardare in casa nostra quello che fanno gli altri, prendo atto di questo fatto che di fronte al voto una maggioranza una minoranza di 308 voti cosa si doveva fare. Io ricordo che la Lega ha tenuto graniticamente in questa legislatura. Ma non era dunque Berlusconi era un po' con le spalle al muro, dice lei, per un sacco di motivi, ha dovuto accettare ob torto collo il governo Monti, così le questa è la sua valutazione? Ma io credo che in qualche modo guardo i fatti. Sì, in quali un certo sono? Momento ha detto che non voleva andare a elezioni, poi dopo qualche giorno ha dichiarato che avrebbe appoggiato il governo Monti. Che cosa gli abbia fatto cambiare idea? Cosa? Questo io come faccio a sapere. Secondo lei? Secondo lei? Ma credo che dei suoi consiglieri molto ascoltati l'abbiano persuaso a fare questo. Letta. Ma per che cosa lei dice? Per le proprie aziende? Per la propria fortuna patrimoniale? Cos'è che ha impresso accelerazione? Qualcuno gli ha fatto presente che... probabilmente era meglio appoggiare questo governo. Sì, ma per quali ragioni? Motive ragioni politiche o extra politiche? No, ma secondo lei? Secondo lei? Non lo so, io che c'entro, mica sono io. Non lo sarei che devo saperlo. E noi non siamo mica dentro i palazzi, noi siamo fuori. Noi siamo fuori dai palazzi. Guardi, dentro e fuori, come dice una famosa. Vivo a Porta Pia a lavorare per le infrastrutture, quindi non. No, però lo so. Secondo lei sono ragioni politiche o c'è anche dell'altro? Cioè Berlusconi è stato costretto, naturalmente la maggioranza parlamentare era quella che era, ma ha passato la mano a Monti perché preoccupato da ragioni extra politiche? Questo andrebbe chiesto a lui o al suo stretto entourage. Io posso solo registrare questo fatto che lui in un primo momento ha dichiarato che caduto lui si sarebbe dati elezioni. E poi ha cambiato idea. E nel frattempo che è successo? Napolitano gran persuaso dei suoi consiglieri economici, i suoi consiglieri politici, questo è un dato di fatto. Ma Napolitano come si è comportato? Come si è comportato Napolitano in questo frangente? Come? Napolitano come si è comportato in questo frangente? Ma Napolitano direi che all'interno dei fortissimi poteri che la Costituzione gli conferisce, sì. Li ha usati tutti, insomma. Non si è fatto mancare niente, lei dice. No, non si è fatto mancare niente, però. Non è uscito, secondo me, dai limiti costituzionali, però li ha usati veramente tutti. D'altro canto, in politica il vuoto non esiste. Se qualcuno lascia un po' di vuoto, l'avete lasciato inevitabilmente voi. Qualcun altro lo occupa. Voi un po' di vuoto l'avete lasciato. Cioè, alla fine lo spread, lei dice, si è alzato, però rispetto agli ultimi giorni del governo Berlusconi è sicuramente più basso. Vabbè. E poi, la borsa è più bassa di quando c'era. Vabbè, però la borsa. Che c'entra? Quella... è sceso ulteriore. Come che c'entra? Cioè, voglio dire, la borsa fa parte no, però economia, le voglio dire anche se i tecnici. Evidentemente i nostri operatori danno un giudizio estremamente negativo alla nostra economia, ancora più bassa adesso di quando Berlusconi ha abbandonato. Però i tecnici arrivano. Un conto l'economia, un conto lo spread. I tecnici arrivano quando la politica in parte ha fallito. Poi io sono molto scettico sul governo dei tecnici, come lei ha sentito, però una parte di responsabilità della politica, anzi una buona parte di responsabilità della politica c'è. Ma sicuramente, allora adesso non vorrei. Cioè, insomma, avete fallito, Castelli. Sugli altri. Io penso che la Lega abbia fatto fino in fondo il proprio dovere. E il PDL che si è squagliato, dice. E il PDL si è squagliato a livello parlamentare alla Camera, questo è un dato di fatto. Quindi questo ce lo voglio dire sotto gli occhi di tutti. Vabbè, ma adesso non sarà mica. Che tra diciamo il 14 dicembre l'anno scorso e quest'anno alla fine è venuta meno, questo è un dato di fatto, quindi non è incontrovertibile. E poi devo dire che dall'interno io ho visto negli ultimi due mesi una specie, diciamo, di blocco sulle decisioni. C'era il decreto sviluppo, che era un bel decreto secondo me. E chi è che bloccava? 100 articoli. Chi è che bloccava? Diciamo, nessuno decisivo, ma tutti piuttosto positivi e importanti. E chi si, chi si frapponeva? Non ha visto la luce. Questo credo che sia stato un punto abbastanza negativo per il nostro governo. Senta, il famoso complotto di cui parlava prima, lei dice: non ho le prove, però penso che ci sia stato questo complotto, ma ordito da chi? Perché per esempio al Parlamento europeo abbiamo sentito quella dissertazione quella specie di invocazione invettiva di quel parlamentare molto forte. Nigel Farage, un mito. Immaginavo che le piacesse. Un mito, condivide in pieno al 100%? Come? Condivide al 100%? Se dici condividesse al 100% sarei certo che è un complotto, siccome non ne sono certo, non, però al 99 Nigel Farage, diciamo che è noto almeno tra in un certo ambiente, anche quello che in parte frequento anch'io, perché è un fortissimo oppositore, diciamo, soprattutto svela le ipocrisie dell'Europa. E quindi sotto questo punto di vista è molto simpatico, chissà perché è sfuggito miracolosamente un incidente aereo, giusto per aggiungere diciamo benzina sul fuoco complottista. Ultimamente è sfuggito miracolosamente un incidente aereo. Vabbè, questo in teoria, cioè lui, Farage, è scampato miracolosamente un incidente aereo. Lo vogliono uccidere? Ho detto questo, però visto che stiamo parlando di teoria del complotto, mettiamoci anche questo elemento, così la cosa diventa ancora più intrigante. Ma comunque un mito per lei, comunque una forte spinta a un governo sempre più vasto, prima europeo, poi forse addirittura mondiale, a una moneta mondiale, a una sorta di grande fratello. Per esempio l'altro caso è mascherato da elementi legati alla lotta fiscale, il fatto che non si possa più usare il contante. Il giorno che noi non potremo più usare il contante, saremo monitorati dove siamo, quanto spendiamo, quali sono i nostri gusti, cioè ci stanno togliendo l'identità, più verso una società da grande fratello. La società del grande fratello presuppone evidentemente che anche la democrazia faccia un passo indietro, ci siano degli ottimati. Però scusi, Castello, però ripeto, questa è la teoria del complotto che io ma lei la usa la adesso parliamoci di la carta di credito, la usa o no lei, Castello? Perché già la usiamo, no, la uso liberamente, non perché sono obbligato. Parenzo, se lei non capisce questa differenza, e allora ma la capisce, ma è il progresso, però serve anche a combattere l'evasione fiscale, la modernità, allora il progresso. Io posso suggerire di, per esempio, mettere un televisore in casa di tutti, in modo che come c'è in Orwell nel 1984, in modo che il grande fratello possa vedere cosa facciamo ogni momento, quindi a quel punto lì non ci saranno più delitti, perché ciascuno sarà monitorato 24 ore su 24, non ci saranno più soprusi, non ci sarà più evasione, non ci sarà più nulla. Ma io voglio ricordare che una società liberale vive sull'equilibrio. E chi è che la mette in discussione? Bisogna contemperare da un lato l'esigenza sociale dello Stato e dall'altro la libertà dell'individuo. Se invece noi sacrifichiamo tutto alle esigenze dello Stato, entriamo nello Stato etico, per carità, Nietzsche l'ha teorizzato, Hegel l'ha teorizzato, e noi diventiamo e dunque, il contante, delle macchine monitorati dalla mattina alla sera. L'utilizzo del denaro è una scelta, ognuno può scegliere quello che vuole. Io non scelgo questo modello di società. Dobbiamo pensare che l'uomo una certa libertà personale la debba avere. Siamo qui 800 24 00 24. Eccoci. Allora, senatore Castelli, lei, fosse per lei, Maroni può fare da subito il capogruppo alla Camera, oppure è una questione che non le interessa? Ma questa è una questione inerente al gruppo della Camera, se la risolveranno loro insieme al segretario federale. Per quanto riguarda il Senato, io sono rientrato, faccio il mio dovere ai trasporti. Bricolo è un ottimo capogruppo. Per me può restare anche Bricolo, insomma. Come? Per lei può restare anche Bricolo tranquillamente. E questa storia di dimettersi da tutte le commissioni, come dice oggi in una intervista, questa è una storiella veramente curiosa, perché significa essere completamente ignoranti per quanto riguarda i regolamenti del Parlamento, perché le commissioni sono, nessun regolamento né di Camera né di Senato parla di maggioranza o opposizione per la nomina dei presidenti. E come per il presidente della Camera? Più voti, resta in carica circa metà legislatura, il regolamento prevede che a metà legislatura vengano rinnovate le cariche, sì. Sono state rinnovate, punto. Senta, e diverso è il caso del Copasir, perché la legge istitutiva del Copasir prevede, per motivi evidenti di equilibrio dei poteri, sì, che vada a un membro dell'opposizione. E dunque voi questa è la legge, poi naturalmente chi è appiccicato alle poltrone dice che noi vogliamo le poltrone, e lo dicono quelli che sono attaccati alle poltrone con la colla. Noi non vogliamo le poltrone in quanto tali, perché pensate, pensate che quelli che potrebbero aspirare a questo poltrone sono ex ministri, per cui figuriamoci se ci stanno lì a morire per una poltrona del Copasir. Sì. Però lo dice la legge, non è che lo diciamo. Cioè, siccome la Lega è l'unica all'opposizione, non sarebbe corretto e giusto dare la presidenza del Copasir? No, non è corretto e giusto, lo dice la legge. Bisogna vedere se la maggioranza, la stragrande maggioranza parlamentare bulgara che oggi domina il Parlamento, vuole seguire le leggi che essa stessa si è dato, se le vuole tradire. Questo dipende. Ecco, ma come considera questo Parlamento in cui c'è solo la Lega all'opposizione? A cosa lo paragona? Beh, io non ho mai visto. A cosa lo paragono? Un atomo di uranio. Un atomo di uranio? Cioè? Che non è? Lo spiego a Parenzo. Beh, anche a Cruciani, però non credo che sia un fisico così provetto. Però prego. I nostri elementi sono tanto più instabili quanto sono composti da più nuclei di uranio. Sì. I nostri atomi sono tanto più instabili quanto più hanno un maggior numero di protoni, neutroni ed elettroni. Sì. Quindi questo Parlamento è secondo me un gigante dai piedi d'argilla. Sono troppi, con idee troppo diverse. Secondo me. E quando esploderà allora? Quando arriveremo rischia di esplodere. Ecco, quando arriveremo alla. Quando non lo so. Forse questa è la ragione per cui Monti si guarda bene dal prendere provvedimenti. Non lo so. Vabbè, sono passati anche pochi giorni. Volevo capire una cosa: se toccano le pensioni d'anzianità, che fate? La piazza. Cioè, avete intenzione Castelli. Di fare qualcosa? Lotteremo con tutte le armi che la democrazia ci dà e ci consente. In questo caso. Parlamento, nelle piazze. Sui giornali, sui manifesti, sui media, noi siamo un movimento assolutamente democratico, useremo tutte le armi che la democrazia ci dà, questo è un dato. Ma Tremonti, qualcuno voleva tesserarlo per la Lega? Come? Tremonti, lei lo vorrebbe nella Lega, con la tessera della Lega? Oppure non appartiene chi alla vostra storia? Chi lo ricandida poi sto Tremonti? Ma, la Lega accoglie tutti coloro i quali vogliono militare nella Lega e dimostrano di appoggiare le idee della Lega, di appoggiare e di fare militanza della Lega. Quindi figuriamoci se uno come Tremonti se dimostrasse di voler abbracciare le idee della Lega. Ma è leghista? Sarebbe veramente un valore aggiunto, questo non c'è mio. Ma è leghista come sostiene lui nell'animo, oppure è un leghista? Ce lo deve dire lui. Viene sempre lì alla festa degli ossi. Ma non solo. Come? No, viene spesso alle feste della Lega. Cioè, com'è la base leghista? Lei lo vede come un leghista o come un estraneo alla Lega? Amico ma estraneo? In questo momento è amico ma estraneo, perché non ha la testa della Lega e apparteneva a un partito alleato. Se vuol diventare militante della Lega, ben venga. Deve fare la gavetta. La Lega rinuncia a una personalità esimia come quella di Tremonti. La Lega, come tutti i partiti, hanno bisogno di persone capaci. Ma ha bisogno di Tremonti la Lega? Sicuramente ci darebbe un grande valore aggiunto. Ma ha più bisogno la Lega? Da noi, dipende da lui. Darebbe un grande valore aggiunto alla Lega? Mi pare che la personalità di Tremonti, dal punto di vista intellettuale e politico, sia assolutamente indiscutibile. Dunque lei ce lo vedrebbe bene nella Lega, un valore aggiunto per noi, magari venisse, no? Magari aderisse alla Lega. Sì, ma come vedrei bene tante altre persone se diventassero leghiste. Intanto parliamo di Tremonti. Per dire che giovedì prossimo al Senato ci sarà la commemorazione di Miglio, con la presentazione dei suoi discorsi. che noi manderemo in versione integrale, cioè, alla Zanzara. Se io aderissi alla Lega, non credo che per voi sarebbe un colpo, insomma, sarebbe una cosa normale. Non è che sarebbe per voi una cosa veramente eccezionale. Tremonti, no, noi saremmo contenti, però senza nulla togliere a Cruciani, meglio Tremonti. Mediatica, politica e diciamo anche la sua figura europea, sicuramente quella di Tremonti, senza nulla togliere a lei, è superiore. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. È poco conosciuto, sì, Cruciani. Tremonti, ma saremmo contenti anche per lei, saremmo contenti anche per Parenzo. Sì. Ma Parenzo è più difficile. Sulle corna della barba verde che viene a Pontina. Sì, è un'immagine piuttosto agghiacciante. Grazie, senta, la Padania, la Padania. Infatti, Parenzo è venuto a Pontina anche l'ultima volta, l'ho anche abbracciato. È vero. Senta Castelli, dopo quello che è successo. Viene accolto Parenzo? Vengo accolto come un capo di stato estero, vengo accolto alla Parenzo. No, dica Parenzo come viene accolto. Con grande gentilezza, con grande qualcuno che ogni tanto mi urla, giustamente, mi dice torna a Catua, e c'ha ragione, però. Qualcuno, però altri sì, grande calore. Quindi come giusto che, ma tutti non, però anche quelli che magari lo criticano lo fanno con grande civiltà. Assolutamente, mi offrono poi da mangiare. Una maleducazione. No, senta, mai, in poche parole, Castelli, devo concludere perché c'è il traffico, già siamo in ritardo. Grazie. Qualche minuto. No, aspetti un attimo. No, oggi, dopo questa decisione della Lega di non appoggiare Monti, la Lega è più, cioè voi, lei si sente, Roberto Castelli, più vicino all'indipendenza della Padania o più lontano? E dopo oggi, sicuramente col sentimento più vicino, nel senso che sta venendo fuori il vero volto, ancora una volta molto romano e molto centralista, coalizione in cui noi non siamo presenti. Va bene, grazie. Traffico, non lo so. Traffico. Eccoci qui, Giuliano, provincia di Pavia. Buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Parenzo mitico. Che è successo a Parenzo? Giuseppe, bravo. È un mito. Giuliano, ti abbraccio con affetto, grazie. Con calore, con amore. Cruciani, senta, io volevo parlare su un argomento non recentissimo, relativamente soprattutto all'ultima puntata di Santoro, che ho trovato molto, molto populista, molto demagogica, relativa al lavoro giovanile. Chi è? Ah, chi è? No, no, chi è dato lei ha il telefono acceso? Un altro telefonino acceso? No, non è il mio. Non è il suo? No. Forse ma qualcuno è mio. Vicino a lei, è il tuo? Forse è il mio. Vabbè, comunque, allora? Dicevo, io non sono un anziano, insomma, ho 28 anni, e fondamentalmente il lavoro credo che se uno lo cerchi riesce a trovarlo. Il problema è che purtroppo molti miei coetanei e molti ragazzi più giovani credo che vogliano tutto a portata di mano, vogliono il lavoro sotto casa, ben retribuito, credo che con un semplice pezzo di carta che è la laurea anche in scienza delle merendine. Bravo, sì, è così. Grazie. È così. Arrivederci. È tutto quello che voleva dire? Guardi, fondamentalmente è questo. Grazie. Allora, intanto qualche associazione gay si arrabbia per le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Cerapico qui alla Zanzara. Cioè non occorre essere dell'associazione gay per incazzarsi. Però le facciamo risentire. Il tuo amico Cerapico. Le facciamo risentire Cerapico sui gay qui alla Zanzara venerdì passato. Mi piace poco. Giuseppe Cerapico, senatore del PDL. Mi piace poco. Tra un popolo di pederasti, un popolo di belle ragazze, un popolo di belle ragazze. E qui si parla altro che di gay sdoganati, gay matrimoniati. Salvatore da Ragusa, non era solo questo naturalmente il pensiero di Cerapico sui gay, si dilungava. Salvatore, prego. Pronto? Sì, buonasera, io sono Salvatore Di Maria di Ragusa e sono il segretario provinciale della CISL. Segretario provinciale della CISL, scusi, non ho capito. Segretario provinciale. Lei è il segretario provinciale della CISL a Ragusa? Sì. Sì, mi dica. Ho sentito il dialogo tra Bossi e il segretario generale della CISL. Sì, sono rimasto sconcertato per le cose che sono state dette da parte di Bossi. Perché? Che ha detto, signor Bossi? Che ha detto Bossi? No, perché non ho fatto altro che provocare a Bonanni, sì, e fare dire delle cose che Bonanni nelle sedi della Chiesa, nelle scuole, nei dibattiti non ha mai detto. Cioè, che cos'è che non ha detto? L'esempio dei magistrati, la pensione dei magistrati e cose. Non l'ha mai detto. Quindi io veramente sono molto offeso che c'è stato Bossi che si è espresso in questo modo nei confronti. Ma non si è espresso in nessun modo, Bossi, era una telefonata cordiale, una telefonata mi sembrava cordiale. Fosse una telefonata tra da due politici. Allora senti Parenzo, che Bossi, volevo semplicemente notificarvi che abbiamo assistito chiaramente alla barzelletta, sì, no? Nell'interpretazione di Parenzo. Salvatore, non so di cosa sta parlando, non so di cosa sta parlando. Va bene. Andiamo a Bergamo, Roberto, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo solo fare complimenti e tutti un complimento a Parenzo per l'imitazione di Vendola e della De Gregori. Di Vendola? No, Vendola, Vendola non c'è nessuna imitazione di Vendola. Ma nessuno imita nessuno, siamo due giornalisti, Cruciani. Ma non c'è nessuna imitazione della Gregori o della De Gregori? Non c'è nessuna imitazione della De Gregori. No, è quello che intendevo. Hanno detto delle cose talmente assurde che sembrava quasi un'imitazione di Parenzo, quelle cose che avete trasmesso prima. Io ero al telefono, ma la radio, mi sembrava addirittura quella. Lei dice, parlavano in modo così assurdo che sembravano delle imitazioni, non gli originali. Quell'altro ha fatto prima, esatto. Allora? Vabbè, ho capito. Grazie, abbiamo Ciarrapico integrale sui gay? Non ce l'abbiamo, benissimo. Ciarrapico, il signor Ciarrapico. Ciarrapico integrale sui gay non ce l'abbiamo. Mi piace poco. Simone da Chieti, buonasera. Mi piace poco. Pronto? Sì, Simone, dica. Senta, no, io non riuscivo a capire una cosa, volevo farvi una domanda. Di che cosa vi stupite di Berlusconi? Perché, vede, a me è capitato a suo tempo, quando stava nascendo Forza Italia, di incontrare sull'aereo il suo responsabile marketing, che mi aveva spiegato che Berlusconi voleva entrare in politica cercando di essere il miglior politico nella storia italiana, e ci è riuscito, nel senso che nella realtà Berlusconi ha promesso l'impossibile, allora? Ha preso in giro tutti quanti, sì, si è trovato di fronte alla situazione che ad un certo punto tutti gli dicevano devi fare le riforme, devi fare le riforme, sì, ma chi le fa? Ovviamente tutto quanto il baraccone della politica, sì, gli è crollato addosso, perché lui non è un politico. Lui è un imprenditore, va bene, ha studiato dunque come si fa a fare il politico. E quindi da chi è stato travolto? Non ho capito. È stato travolto. Lui è entrato dentro il circo. Ma questo della politica, questo lo dico io. È stato travolto. È stato travolto dal suo stesso PDL, amico mio. Fallimento, fallimento, fallimento. Sì, ma editoriale sobrio. Fallimento qui ha fallito. Ha fallito il Partito Comunista. Ha fallito. Ma che c'entra il Partito Comunista? Hanno fallito tutti quanti, perché nella realtà quello che le voglio dire, che cosa? È che il Parlamento è un circo, sì, ma il circo è sempre appartenuto ai pagliacci. E dunque? Quindi è inutile fare discorsi. Quelli che sono stati quelli che hanno sostenuto il PDL erano gli stessi che prima o erano per Rifondazione Comunista o per quell'altro. Quello che voi non avete visto è che al di là delle persone che si sono viste in televisione, sì, nei paesini, nelle province, nelle regioni, ci sono state sempre e solo le stesse persone che hanno cambiato da un punto all'altro. No, ma c'è un nella problema realtà in Italia Berlusconi ha fatto le su quelli che prima erano quelli dell'Asinello, quelli di centro, ma se noi ci ritroviamo oggi, addirittura siamo tornati indietro. La Lega continua a dire Padania libera, è tornata a dire Padania libera per non perdere voti. Lei sta bene, noi sì, ci ritroviamo addirittura Catini, che è il volto nuovo, che va a fare le conferenze con De Mita per la ricostituzione della DC insieme con Fini e altro. Ma ci rendiamo conto che paese siamo? Lei ha fatto un discorso un po' confuso, che in sostanza vuole dire che in Italia non cambia mai nulla e che questo paese è sostanzialmente irriformabile. Ecco, io lo prendo per quello che è il suo discorso, anche se poi lei, è un discorso un po' più articolato, e su questo punto sono d'accordo con lei. L'Italia è un paese quasi irriformabile. Oh, bene, siamo qui. Bene, 800 24 00 24, è sempre a Zanzara, in diretta, paura, in diretta paura. Qui da Milano, perché ti faccio paura? No, per lei, bravo. Dove andiamo? Vito da Milano, buonasera, Vito da Milano. Buonasera. Signor Vito, dica pure. Cruciani, buonasera. Volevo salutare anche la Zanzara Parenzo, fastidiosa come la Zanzara. È qui, è buonasera, qui Don Vito. Ma che buonasera, c'entra Don Vito? Lei chiama da Don Milano, non è chiama da Palermo. Beh, uno cioè, che si chiama Vito. Ma poi anche se chiamasse da Palermo, mi pare che qualcuno dici Don Vito. Devo farvi i complimenti, io è una vita che vi sento, ancora prima che ci fosse Parenzo. Sì, perché... E oggi capisco il nome del vostro programma, perché... Sì. Parenzo ci sta proprio bene. Vabbè, allora questo. Niente, ho sentito l'intervento di Bertinotti. Sì, il signor Bertinotti. Ha scatenato. Apprezzo la sua carriera politica, sono contrario al vitalizio. Anch'io sono contrario ai vitalizi, bisognerebbe abolirli. Abolire, anche perché il signor Bertinotti, ma non a livello personale, perché lo conosco. Cioè, lo conosco politicamente da tantissimi anni. Sì. L'unica cosa negli ultimi 15 o 20 che ricordo suo è delle 35 ore nel suo governo, che è stato pure respinto. Quindi dare un vitalizio, cioè, mi sembra una cosa allucinante. Tutto qua. Purtroppo i privilegi, se vanno aboliti per tutti. Va bene, a proposito di senatori, credo che abbiamo... il signor Ciarrapico scatenato sulla questione omosessuale. Di nuovo in diretta? No, che in diretta di nuovo. Ciarrapico. Mi piace proprio poco. Tra un popolo di pederasti, un popolo di belle ragazze, E qui si parla altro di gay sdoganati, gay matrimoniati. Non mi piace questa razza qui. Facciamo di sfilare una volta all'anno, se sfilano ancora per Roma, purtroppo, ma preferiamo delle belle ragazze come la Minetti. Comunque noi veniamo da una religione in cui saltiamo la mascolinità e saltiamo la fierezza dell'uomo, quindi mi pare che c'era molto omosessualità. Lei avesse un figlio omosessuale, cosa farebbe? Mi vergognerei terribilmente. Cercherei di spiegargli che ci sono valori molto più importanti. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Proprio come noi, persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però ci hanno le ali. Beh, ci vuole Enrico da Milano, buonasera. Buonasera Enrico, dica. Complimenti per la trasmissione, complimenti anche a Parenzo, anche se è un po' sinistroso per i miei gusti, però mi fa ridere. Complimenti anche a quattro matti che vi chiamano, sì, anche la settimana scorsa, che vi definivano dei verbini, ecco, al soldo della politica. Sì. Niente, io volevo commentare, c'era piccolo, io padre di famiglia, sono a classe media, un po' di destra, ripeto, anche se allora è simpatico, non si butta giù, no, così. Ma ha ragione, cioè, alla fine, cioè, da questi personaggi qua, ecco, la compagnia d'aria, ecco la stronzata, e c'era veramente aver paura. Vero che dopo noi italiani siamo un po' strani, perché dopo andiamo all'estremo con il Berlusca che va con un po' di signorine e lo fa diventare la sua attività principale, ecco. Dunque concordo con Ciarrapico, dopo Ciarrapico, se gli piace così. Scusi, non ho capito, caro Enrico, ma qual è il punto di questo discorso di Ciarrapico che la affascina? Discorso. Ma cosa che per il fatto che effettivamente il Ciarrapico parla chiaro come dovrebbero essere le cose e non in modo ambiguo come tanti fanno, politica corretta dicono. Ma così. I signori, quelli che gli piacciono i maschi, io sono un omofobo, però certe cariche, certe attività non dovrebbero farle, perché attività, comunque. Non è un'attività. A quali attività? Scusi, ma non è un'attività, come fa a dire certe, come fosse un panettiere? No, certe attività. Abbiamo un governatore della Puglia, che è un personaggio ambiguo, ecco. Ma ambiguo è lei! No? Lei è pazzo! Ambiguo è lei! No, Parenzo, essere insultato rappresentati da lei è fantastico, non è? Adesso capisco perché infervorate i personaggi, quei matti. Ma lei si rende conto? Dice che è ambiguo il governatore della Puglia solo perché è omosessuale. Lei è tecnicamente pazzo. Tecnicamente. Ma, dai, vendola cazzata ne spara, tipo quella della... Certo, questo lo fanno tutti, anche gli eterosessuali. Appoggeremo il governo Monti e tireremo via le cose, le spese militari, ho capito. Scusa, ma che c'entra questo con l'omosessualità? Ma che c'entra che è omosessuale? Concentra col fatto che è omosessuale, scusa. Ma che tutti gli omosessuali hanno una tendenza femminile. A che fare? Vabbè, comunque dai, gli omosessuali, ma che c'entra? Scusi, Arrigo, tendenza femminile? Ma lei è da ricovero coatto, lei lo sa, sì che è da ricovero coatto. E ride, io sì, rida pure, tanto stiamo arrivando. TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Pisapia lo firma. No, dai, no, dove si trova? Che città si trova? Adesso sono a Bergamo, mi sono fatto qualche ora di colonna con io non ho capito. Ha ragione, dopo io non li condanno, uno decide la sua sessualità a fare i suoi, però non facciamo elettrobicità, perché comunque pubblicità. Detto, non facciamo troppa pubblicità. No, ma scusami, ai nostri figli cosa ti insegniamo? Che è normale. Allora, io ho un figlio maschio che mi dispiacerebbe se diventasse omosessuale, perché prima di tutto non sa cosa si perde, che è uno spettacolo, le donne dopo vanno gestite anche quelle, però lo accetterei, vabbè, però, però un non sarei con lui. Però a certi livelli, secondo me, ci vorrebbe un po' di ritegno, per il semplice motivo che hai una carica pubblica, hai un certo tipo di responsabilità. Guardi, lei dovrebbe andare a lezione da un signore che fra poco abbiamo come ospite, che ha girato anche una serie televisiva che aveva a che fare con l'omosessualità, con l'omosessualità femminile. Lei dovrebbe prendere lezione da una persona che sicuramente ha più anni di lei, ma che sulla questione dell'omosessualità ha sicuramente delle cose da insegnare rispetto a questi pensieri che mi sembrano delle cose un po' da bagati, devo dire la verità. Com'è? Enrico, da bagati. È bagato in testa, eh. Sì, perché pensare alle cose che pensa lei è veramente un po' da e non aggiungo altro. È con noi Lino Banfi, buonasera. Ciao, buonasera. Grande Lino. Lontanissimo, ma non fa niente. Dove si trova, Lino Banfi? Dove si trova? Sì. Dove si trova, caro Banfi? È in una grotta? No, è una specie, sì, di grotta. Sì, dove è Grotta Ferrata? Dov'è? Facendo una riunione proprio in un posto un po' curioso. Ma dov'è? Ad Assisi, dov'è? Dove si trova? No, è una specie di sotterraneo, tipo mazzinieri, i mazzinieri che si incontrano di nascosto. Senta, che qui prendono poco i telefoni, poi è il mio che fa capricci. Senta Banfi, ma mi sento bene. Cioè, ma è vero che le hanno proposto una parte in un film in cui lei deve interpretare per il godimento di Parenzo qui Scilipoti? No, che meraviglia. Guardate, questa favola che sta girando questi giorni, sia del presidente Napolitano, del quale mi onoro di essere, non dico amico, ma insomma so che mi vuole bene, mi stima, mi ha dimostrato molte volte la simpatia, ma che dice che mi ha detto di fare il nonno libero, non è vero. Noi facciamo solo, ogni volta che ci incontriamo, io e il presidente, c'è questa gara che fanno in Italia i ragazzi delle scuole, fanno una specie di sondaggio, chi vorresti avere come nonno? Sì. E nei primi posti arriviamo sempre io e il presidente. Allora lui per scherzo mi dice: Banfi, come siamo arrivati quest'anno? E io dico sempre: ex equo, presidente. Anche quando vinco io, di solito vince lui, che è molto più amato di me. Però scherziamo solo su questo, quindi si sono inventati questo. Questo è Scilipoti. Ma lei lo conosce, no, Scilipoti? Scusi un attimo, Banfi, prima di Scilipoti, però chiudiamo su questa cosa qua. Dunque, non è vero che Napolitano le ha chiesto di rifare nonno libero? No, ne parliamo spesso, o adesso ultimamente ha detto al presidente dell'UNICEF internazionale, con il quale siamo incontrati, in un inglese perfetto, il presidente parlava benissimo di me e diceva: questo in Italia interpreta un nonno, lo chiamano il nonno d'Italia. Quindi questo sa, ma non che mi ha detto di fare il nonno di rifarlo di nuovo, no? Tutti i pensieri che ha quello in questo periodo, si va a preoccupare di Banfi che deve fare nonno libero. Beh, sarebbe carino, però, magari in un incontro può succedere che le dica: perché non rifai nonno libero che mi manca tanto? Beh, no, non l'ha detto, non credo che abbia il tempo di vedere queste cose, però sa che io lo faccio, questo è già importante. Esercita una moral suasion, come si dice tecnicamente. Su nonno libero. Sì, moral suasion del collo. Scusi, ma lei dopo che, vabbè, già lo sapeva prima, ma dopo questa ulteriore... Però anche se non è stato il presidente, c'è molta gente che lo rivuole, certo. Fax mi hanno detto che arrivano in Rai, messaggi, quando tornano, eccetera, quindi non lo so, può anche darsi che io adesso mi decida a fare qualche puntata. Meno male. Questa, ma questa cosa di Scilipoli, questa cosa di Scilipoli. So che è un onorevole che ogni tanto fa delle cose strene, sì, però è molto strene, molto strene. Detto questo, sì, vanno festeggiato da Sisi tutti i critici cinematografici, bontà loro, sì, hanno parlato bene della mia filmografia schifeta fino a qualche anno fa. Esatto. Adesso è diventata tutto cult movie e quindi i critici, ma quelli grossi, si sono scomodati e io li ringrazio. Io sono cresciuto. Banfi è un grosso attore, così così. Anni fa, Banfi, mi faccio fare questo inciso. Anni fa che succedeva? Io sono cresciuto con Banfi. Banfi era schifato da queste stesse persone, o sbaglio? Come? Anni fa lei era schifato da quelle stesse persone che oggi la, no? Oggi. No, mi meravigliavo, cioè non mi meravigliavo perché so il destino nostro qual è, però dico ogni tanto qualcuno può parlare pure bene, sono film carini che abbiamo fatto. Invece ho notato, e con molta meraviglia mia, questi 5-6 giorni di Assisi hanno fatto tanti miei film, sì, molti non li avevano neanche visti, sono rimasti meravigliati, scioccati in bene, e in mezzo a questi ci sono dei registi, uno di questi registi ha detto, se oggi io facessi un film con Lino, gli farei interpretare subito Scilipoti. Ma è nata da lì la cosa. Una battuta. È nata da lì. Allora, se il suo telefono regge, abbiamo il traffico, poi torniamo subito, 800 24 00 24, per l'ultima battuta. Ma a lei, ci pensi bene nel frattempo, Banfi, piacerebbe o no? E in qualche modo, fisicamente, non voglio offendere nessuno, si riconosce in questo strano personaggio che è stato soprannominato il Danny DeVito delle istituzioni? Siamo qui, 800 24 00 24. Tu sai, Cruciani, che io sono cresciuto coi film di Lino Banfi. Lo so, tutti siamo cresciuti con i film di Lino Banfi. Cornetti alla crema, Vieni avanti cretino, sono streme. Voi mi state prendendo per un eroe? No, per un coglione! No, mi state prendendo per un eroe! La minchia, madonna bella, com'era quella? Com'era? Beh, mi immagino che siete alti di statura, quindi quando i ragazzi giovani, o meno giovani, mi dicono sono cresciuto con i tuoi film e vedo certi bei ragazzi e delle donne alti, dico beh, sei cresciuto bene, meno male. Una volta ho incontrato dei fantini sardi, dei fantini sardi, che erano piccolissimi di statura, come sempre, sì. E uno di questi fa, Lino, siamo tutti cresciuti con i tuoi film. Io dico, beh, non è che proprio è andata benissimo come crescita. No, poi devo dire che ultimamente dire sono cresciuto, io lo so perché Parenzo è un cultore della materia. È un cultore dei suoi film, come il sottoscritto, però spesso va di moda dire adesso fare la collezione, tenere i film di Lino Banfi. Direi di Luchino Visconti, ad esempio. No, per esempio. Mi sono ricordato il regista che ha detto che vorrebbe fare con me, se si potesse fare adesso, è Montaldo, Giuliano Montaldo, grandissimo maestro. Ma lei lo farebbe o no? Sì, ha detto con te farei subito La vita di Scilipoti. Ma lei adesso mi ha incuriosito, mi devo informare bene di questo onorevole che fa. Ma fisicamente l'ha visto, un po' vi assomigliate fisicamente, si siete abbastanza simili, no? È quello che aveva il lutto al braccio giorni fa. Sì. Ma si riconosce un po' fisicamente Scilipoti o no? Dica la verità, che gli scrive lei. È più magro di me, però è peletto, piccolino, forse qualche centimetro meno di me, ma uno nel cinema aggiusta tutto. Ma dica la verità, che i discorsi a Scilipoti glieli scrive lei, dica la verità. No, ma non lo conosce, non lo conosce nemmeno Scilipoti. Il ghostwriter dell'onorevole Scilipoti è Lino Banfi, mi farebbe sentire meglio sentire questa cosa, davvero? Si può fare Scilipoti nel pallone per ricordare l'allenatore nel pallone. Beh, questa qua è molto bella. questa non è male. Scilipoti nel pallone, perché effettivamente da quando non c'è più il governo Berlusconi è entrato un po' nel pallone lo stesso Scilipoti. Può anche essere, perché no? Senta, ma lei che sappiamo i suoi rapporti con il Presidente del Consiglio, non vogliamo rievocarli qui, quanto è rimasto dispiaciuto di Berlusconi che non è più Presidente del Consiglio? Quando? È rimasto molto dispiaciuto da Berlusconi, l'ha sentito da quando non è più Premier? No, io sotto Pozzotto mi faceva piacere, perché io, proprio per l'amicizia che ho verso di lui, ogni tanto gli facevo un fax a Palazzo Chigi dicendo: Chicchezzo te l'ha fatta fare, Chicchezzo te l'ha fatta fare. Quindi alla fine sono stato contento che ha lasciato, riacquisterà in salute. Lei dice così, dunque della gufata, cioè, per l'amico Berlusconi, per la sua salute sono contento che abbia lasciato Palazzo Chigi. Sì, magari ci sarà più tempo di vedersi o no? No, beh, quello, se uno vuole, si vede, anche se uno è papa, se uno è re, se vuole vedere un amico lo vede sempre. Va bene, allora mi raccomando, con Scilipoti, ma lei ci pensa seriamente oppure è una butade, quella buttata lì da Montaldo? Beh, a fare un film solo, non è che puoi fare due puttate, da fare proprio un film al cinema. Quindi stiamo pensando di fare questa cosa. Cioè, una cosa seria. No, scherzo, no, figurati, non c'è tempo con tutti gli impegni che abbiamo, però metti che c'è veramente Montaldo che si scrive una bella sceneggiatura lui, o se la fa scrivere, o ce la scriviamo insieme, vediamo che è un caso di farlo. No, ma è facile, no. Guarda Banfi, è facilissimo, lì basta che ti prendi lo stenografico della camera e prendi i discorsi di Scilipoti, la sceneggiatura è fatta, non è che serve molto. Ma non è che basta solo questo. Basta fare anche quello, vedi? per esempio il signor Ma avete dato un'idea. Il signor Scilipoti è appassionato di agopuntura, lei conosce l'agopuntura? Ciao ragazzi, grazie di quello che avete detto di me. Ciao, grazie. Saluti. grazie. Ciao. Piero, provincia di Lecce, buonasera, non ci sentivo più a un certo punto. Buonasera. Dica. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Io volevo chiedere un vostro pensiero. Sì, su che cosa? Alla faccia tosta di quell'ospite che avete avuto prima. Della Lega. Che chiedeva grandi provvedimenti a distanza di 3 giorni, non avendo avuto modo nemmeno di leggerli i documenti al Consiglio dei Ministri. Cosa che loro sono stati 3 anni ci hanno portato allo stato attuale. Ma Piero, è quello che a un certo punto abbiamo anche osservato, cioè insomma, se sono arrivati i tecnici, cosa cui io sono contrario, e però la responsabilità, una grossa parte di responsabilità ce l'ha anche la politica. Bene, dobbiamo chiudere per questa sera. Caro Parenzo. Mi dispiace, non abbiamo letto Monti. Lo so, domani magari. Cosa domani. Fai tu stasera? Dove domani vai? Esco, no, anzi vado a casa. Ci sentiamo domani, 18:30, La Zanzara, sempre qui, Radio 24. Il danno è stato anche quello di dimenticarci delle nostre vite, dimenticarci delle nostre passioni, dimenticarci dei nostri bisogni, dei nostri desideri, di quello che amiamo, di quello che ci piace, di quello che ci addolora. Certo. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. La Zanzara.